Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle. Vi è mai capitato, in uno di quegli incubi che si fanno sul far dell'alba, ci si sveglia e si ringrazia i propri santi, i propri dei, di essere soltanto stato reduce da un sogno, che quella non sia la realtà, e sognare appunto di essere torturati? È una delle più atroci esperienze che uno possa allucinare. Immagino che sia indimenticabile per chi ci passi. Essere totalmente privi della possibilità di reagire e essere in balia di una persona che ha l'intenzione mirata di crearti del dolore assoluto, di stressare il tuo fisico in maniera atroce per ottenere da te delle informazioni o anche semplicemente per puro sadismo, per suo desiderio di divertirsi. Qualcosa del genere lo si prova dal dentista, assolvendo la categoria odontoiatrica in pieno, ma capita a volte che un'anestesia non funzioni bene, a me è capitato, nel momento dell'estrazione di una radice, il dentista deve continuare e procedere, anche se tu in quel momento sei totalmente in possesso di tutta la tua sensibilità. Quando accadde a me, mi ricordo che cominciarono a tremarmi dall'alluce dei piedi alla punta dei capelli. Era un dolore così forte, così assoluto, che a un certo punto non sembrava più nemmeno dolore. E uno aveva una sorta di cognizione metafisica del dolore. E la tortura immagino che assomigli molto a questo, ma con l'agghiacciante terrore, paura che non si sa fino a che punto potrà andare avanti l'altra persona su di te. Poi c'è chi lo fa per divertimento, c'è chi lo fa per reciproco scambio di sensazioni, ma questo è un altro capitolo. Non voglio entrare nei variegati, sottili e complicati rapporti sadomasochistici. No, voglio parlare di tortura perché mi è interessata una domanda che si è fatta mercoledì la stampa di Torino, dedicando un'intera pagina al tema della tentazione della tortura. Tutto nasce da un'intervista che ha fatto appunto il giornale torinese a Paul Wolfowitz, che è uno stratega della prima amministrazione Bush, che ha sostenuto in un'intervista appunto fatta alla stampa che l'uccisione di Bin Laden si deve soprattutto alle tecniche di interrogatorio applicate nell'era di Bush ai prigionieri di Guantanamo. Dice che in questa intervista, che pur non rivalutando il ruolo di questo tipo di attività medievali di estorsione dei confessioni, se non si fossero torturati i prigionieri di Guantanamo non sarebbe preso oggi Bin Laden. Soprattutto la famosissima ormai tecnica dello waterboarding, che significa portare una persona al limite dell'annegamento e tirarla fuori dall'acqua proprio nel momento in cui sta per morire, e quindi dare questa sensazione terribile di stare per morire, per portarlo al punto di, pur di far terminare quel tipo di operazione, di confessare. Questo naturalmente ha sollevato polemiche. Il premier conservatore britannico David Cameron ha detto che la pensa diversamente. In un'intervista al BBC ha detto che soprattutto il waterboarding è qualcosa di inammissibile, ingiustificabile, è qualcosa che non fa parte comunque del nostro livello e grado di civilizzazione. Beh, oggi noi vogliamo fare una carrellata invece attraverso quanto al di là delle nostre convinzioni, il nostro livello di civilizzazione, tutto quello che siamo convinti di aver conquistato nei confronti appunto della sopraffazione fisica di un essere umano dotato di potere, dotato di autorità su un altro, quanto invece in realtà questa tecnica sia in qualche maniera in quelle aree limacciose, intermedie, interstiziali in cui il diritto viene in qualche maniera addomesticato o alle necessità di Stato o a un'impellenza o al bene comune, un terrorismo internazionale così potente, così virulento, che minaccia il mondo intero, giustifica l'applicazione della tortura, la cui sola parola sembra farci inorridire, così lontana sembra dalla nostra sensibilità e dalla nostra percezione. È anche un tema molto attuale, perché ieri sera, mentre appunto stavamo definendo con Fabrizio Intonti questa trasmissione, vedo su Dagospia, che è una delle tante maniere probabilmente per lanciare un film su un testo, immagino, abbastanza debole, che il nuovo film di Giuseppe Gagliardi, ispirato al racconto di Roberto Saviano, Tatanka, che uscirà proprio oggi per la Bolero, già suscita una polemica nella sua anteprima, perché c'è una sequenza scioccante, molto difficile da digerire, che non è piaciuta ai vertici della nostra polizia, dove si vedono due poliziotti molto truci, con le facce da cattivo, che seviziano appunto un piccolo ladruncolo adolescente, facendogli bere dell'acqua salata fino a farlo morire soffocato. E si domandano se era lecito, se era giusto rappresentare questo tipo di attività. Ma evidentemente chi sta facendo queste campagne di lancio di un filmetto ha la memoria corta, perché di questo al cinema si è già parlato, e dietro la lettura artistica e intensa del film nessuno poi è andato a curarsi del fatto se realmente ciò accadesse nella realtà, cioè ciò accadesse nella realtà, o se fosse solo frutto della fantasia. So con le mani, tutto il peso del corpo deve restare soltanto sulle ginocchia. Tu non sei un cavallo che cammina a quattro zampe. Tu sei un cittadino democratico. Tu non sei un cavallo. Tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci? Berti un altro litro di acqua e sale, oppure preferisci restare in ginocchio? Dai, dritto! Tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, Mao, Olimpiao. Tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tu non sei un cavallo. Tu sei un cittadino democratico. Vedete, ancora prima del film di Saviano, l'idea che le forze di polizia usassero tecnica di far bere acqua e sale, che provoca naturalmente dolori intensi, che non lascia traccia, che poi venne espulsa negli interrogatori, era già avvenuta a Elio Petri nel famosissimo film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, dove Gian Maria Volonté, che uccide la sua amante, è un commissario di polizia, vuole dimostrare che in realtà la forza dello status, del ruolo, prevalica ogni colpevolezza, e quindi lascia tracce continue della sua colpevolezza, ma nessuno lo accusa. Qui sta interrogando un rivoluzionario di sinistra, come si diceva negli anni 70, appunto applicandogli questa tecnica di pressione, di vessazione, facendogli bere l'acqua e sale, non facendolo appunto stare seduto comodo, delle tecniche di pressione fisica e psicologica per ottenere appunto una confessione. Ricordo che questo film ha avuto un premio speciale la giuria al 23° Festival di Cannes e un premio Oscar al miglior film straniero nel 71 e la nomination per la miglior sceneggiatura originale all'Oscar per l'anno dopo. Quindi di fronte all'idea che qualcosa può essere raccontato artisticamente per spiegare un dramma, un'idea e qualcosa, si è sorvolato sul fatto che poi accadesse. No, invece no, questa mattina di questo vogliamo parlare, e quanto i sistemi di coercizione fisica possono essere usati, sono usati nei limiti in cui si possa questo dire, e quanto può essere rivista la cognizione del diritto, della inviolabilità dell'essere umano alla luce di situazioni di emergenza. 800240024, questo è il tema di oggi. Salve, signor Rindal, o come ti chiamano in ospedale? Sepp, voglio che tu faccia una scelta. C'è un veleno a lento rilascio in circolazione nel tuo sangue. Sono io l'antidoto. Devi uccidere una madre e sua figlia se vuoi salvarti. Il tempo del dottor Gordon è scaduto. Signora Gordon! Segui attentamente quel... Tanto per farvi entrare nel clima e farvi riflettere su quanto ormai noi siamo assuefatti, perlomeno nel nostro immaginario, ad ogni raffinatezza di sevizia. Questo è solo una serie di film, L'Enigmista, dedicati a un personaggio intelligentissimo, ma che crea una sorta di trappole mentali e anche fisica dei personaggi, il cui elemento fondamentale è il dover risolvere degli enigmi, pena, se si sbaglia la risposta, atrocissime maniere per morire avvelenati, dilaniati, uccisi, in cui si devono fare delle scelte terribili, se tagliarsi una mano o morire quando si è incatenato in un posto e via dicendo. Molti dicono che il protagonista, l'enigmista, sia un mio sosia, in effetti ci somigliamo molti. Questo per farvi capire che da una parte la civilizzazione, il grado nostro di acquisizione di coscienza sulla sacralità del corpo di un essere umano, di un nostro simile, ci fa portare a inorridire sulla tortura, d'altra parte siamo espertissimi di tortura. C'è una serie infinita di filoni di film, che a volte sono anche molto interessanti, divertenti, piace il genere thriller, il genere noir, in cui però l'elemento tortura, il sadico che tortura, la raffinatezza a tortura è l'elemento fondamentale. Angelo Iannone, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Angelo Iannone è una persona che ho chiamato questa mattina perché so che da lui posso avere risposte nei limiti e nei termini in cui si possono dare risposte certe e precise sul tema che io voglio sollevare questa mattina. Ricordo che l'abbiamo conosciuto più volte a questi microfoni, un ex tenente colonnello dei ROS, oggi amministratore delegato della JDP Corporate Solutions e segretario generale dell'URISPES della Lombardia, ha scritto un libro Intelligence, un metodo per la ricerca della verità, edizioni Eurilink. Angelo Iannone, tu hai operato nelle forze dell'ordine a vari livelli, hai seguito per tantissimo tempo pericolosissimi e importantissimi boss mafiosi, hai fatto l'infiltrato, hai finto di essere un trafficante, insomma hai seguito tutta la gamma dell'operatività. Rispetto al tema che io propongo oggi, ci sono delle situazioni in cui anche la coercizione fisica, chiamiamola col suo nome, la tortura fisica è ammessa e lecita? Ma sicuramente è ammessa e lecita mai. Quindi se poi ci vogliamo allontanare dagli schemi legali e dire se in alcune circostanze può essere prevalsa la ragion di Stato, chiamiamola in questi termini, e quindi un fine superiore, è un altro tema. Allora, dal punto di vista strettamente giuridico, ciò che fa testo sono le norme del codice penale, e cioè che disciplinano quando e come le forze di polizia, almeno riferito alle forze di polizia, possono fare uso dei mezzi di coazione fisica o uso delle armi. Cominciamo a definire allora, ci sono delle cose che si possono fare che non sono delle torture vere e proprie, ma sono anche il carcere speciale, quando tu hai la luce accesa notte e giorno, quando è sempre una persona che ti guarda, è in fondo una forma di pressione, però è ammessa e lecita. È una forma di pressione che è giustificata ovviamente dalla necessità di salvaguardare o i rischi di tentativi di suicidio, per esempio del diretto interessato, quindi di autolesionismo da parte del diretto interessato, comunque salvaguardare la sicurezza in senso generale. Poi ci sono, come dicevo appunto, le norme del codice penale che disciplinano i casi in cui si può fare ricorso alla violenza, ecco, da parte delle forze di polizia. Poi non riguarda gli interrogatori, che è il tema un po'. Ma non riguarda assolutamente gli interrogatori, ovviamente. Facciamo, se me lo consente, se mi consenti, un po' di storia. Sicuramente nella vecchia cultura post stato di polizia, delle forze di polizia, che in qualche modo è la cultura che io ho respirato soltanto nel suo finire, quando mi sono arruolato, tra virgolette, quindi nei primi anni di attività, la cultura dello sbirro portava a ritenere un male necessario in alcune circostanze ricorrere anche a forme di pressioni abbastanza forti. Beh, nel film di Petri lo dice, fa vedere chiaramente, fanno bere l'acqua e sale. Abbiamo un caso emblematico, per esempio tutti ricorderanno nel 1985, quando rimase ucciso proprio sotto un tentativo di interrogatorio estremo a Palermo il calciatore legato a Cosa Nostra, Salvatore Marino, il cui cadavere poi fu fatto sparire e per questa ragione furono arrestati molti agenti della squadra mobile di Palermo. Quindi è un caso accertato, un caso che... È un caso accertato e fu praticato il classico metodo della cassetta che era molto in voga. E qual è? Ce lo racconti? Perché non... Il metodo della cassetta che all'epoca di cui si sentiva... io ero appena volato in quel periodo, quindi ne sentivo appena parlare, diciamo, era un metodo di tortura, tra virgolette, che prevedeva l'agganciamento, diciamo così, dell'interrogando in una certa maniera ad un tavolo, in modo tale che ci fosse la completa estensione del corpo, e l'introduzione di un tubo nell'esofago, che da cui introdurre acqua e sale. Nel caso classico, appunto, di Marino, questo tubo lesionò in maniera molto grave l'esofago e questo almeno accertarono poi in sede di autopsia, di esame autoptico, e rimase ucciso. Diciamo il problema, scusami Angelo per capire, sì, il problema reale è che esiste un alone leggendario di racconti riferiti, dei tempi delle rivolte studentesche, capitava spesso di essere fermati, si tornava sempre con questo eroismo di essere stati picchiati dalla polizia. Ora, qualche schiaffone, qualche calcio nel sedere, qualcosa poteva senz'altro capitare. Qui entriamo in un altro ambito in cui ci sono dei sistemi studiati, naturalmente nessun manuale li prescrive, nessuno dirà mai queste cose possono accadere, che però in certe occasioni vengono praticati. Lo scopo finale mi sembra quello di inferire il massimo effetto deterrente senza lasciare nessun segno, come le classiche botte col sacchetto di sabbia o col tubo di gomma, le cose che si dicono. Poi non ho mai conosciuto nessuno che realmente le ha subite, però sono cose che fanno parte della letteratura. Certo. Ecco, quello che volevo aggiungere è questo, che ovviamente dal 1985 ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata. D'altra parte anche quell'episodio, per quanto di estrema gravità, era più dettato dal sentimento diciamolo pure anche di accertare forte, di accertare la verità da parte della squadra mobile di Palermo, perché qualche giorno prima era rimasto ucciso in un agguato mafioso il commissario Montana e subito dopo quell'episodio invece la sentenza di condanna di Cosa Nostra arrivò immediatamente e rimase ucciso in un ulteriore agguato il commissario Ninni Cassarà. Quindi uno si fa questo tipo di ragionamento: devo sapere assolutamente da questa persona, perché immagino che ho buoni motivi per sapere che lui sa qualcosa, come salvaguardare la vita di altre persone o assicurarmi la cattura degli assassini di un personaggio, di un magistrato, di un commissario. La liberazione di un sequestrato. O anche la liberazione di un sequestrato. Ecco, nel tempo però, questi sistemi che abbiamo elencato mi sembrano abbastanza arcaici, antichi e tutto, sono stati soppiantati da sistemi più raffinati, meno cruenti ma altrettanto efficaci per ottenere una confessione? Ma è che io possa testimoniare in maniera diretta, direi di no, nel senso che nel tempo che cosa si è verificato? Si è verificato intanto che vi è stato un controllo sempre più forte e giustamente forte di legalità da parte dell'autorità giudiziaria sulla polizia giudiziaria anche con riferimento a queste fasi. È chiaro che poi il tema servizi, CIA e quant'altro è un tema diverso, perché lì non vi è una stretta aderenza dell'attività che viene svolta dall'organo di polizia in senso lato con l'autorità giudiziaria. Quindi l'autorità giudiziaria da questo punto di vista ha svolto un ruolo importante incidendo anche sul cambiamento culturale. Però è emerso un ulteriore problema, a mio modesto avviso, che alla coercizione di tipo fisica è subentrata una coercizione di tipo psicologica che si rivolge a volte in maniera molto raffinata a pentiti piuttosto che a persone che vengono sentite come persone informate sui fatti, quindi cosiddetti testimoni, bene, a cui può essere a volte lasciato intendere che possono passare dalla veste di testimoni alla veste di indagati, e questo crea altro genere di danni. In questo caso le violenze poi le subiscono coloro che subiscono, sulla propria pelle, procedimenti che nascono da dichiarazioni. Allora, Angelo Iannone, ci fermiamo un istante, devo dare la linea alle informazioni della borsa e riprendiamo tra un minuto con questo interessante excursus su quello che realmente accade, quelle che sono le maglie della legalità, e vediamo se poi riusciamo anche a capire quello che esiste nell'ambito limaccioso e misterioso del non detto e del non scritto. Email melog@radio24.it. Ma che siete matti? Oh, ma che si ammazza così la gente? E allora? E mo chi vuoi dice da fare nel ponte delle barche? O sapevo solo lui, io non so niente. Che gli dite voi al comando? E allora? Allora che? Ma voi credete? Ma scusi, lei credeva che io ce lo sapessi? Io non so niente, non so. Io non so niente. Signor capitano, io stavo alla sanità, stavo. Non so niente. A noi soldati non ci dicono mai niente. Ma che c'è, vengono più a noi queste cose? Non so niente, signor capitano. No. No. No. Vieni! Vieni! E allora? Io non so niente. Vieni! Se lo sapessi, me lo direi. Io sono un vigliacco. Lo sanno tutti. Stiamo parlando di sistemi di coercizione violenti, stiamo parlando di tortura, stiamo parlando della possibilità di andare oltre la condanna di diritto che ormai tutti condividiamo di questo tipo di sistemi in alcune situazioni per mano di alcune forze speciali. Tutto parte da una dichiarazione appunto di un stratega della prima amministrazione, dell'amministrazione Bush, che aveva in un'intervista alla stampa detto che in realtà se non ci fossero state le torture di Guantanamo non sarebbe mai stato preso Bin Laden. Ci dibattiamo in un tema che in realtà non ha risposta, una soluzione. Umanamente, civilmente, nessuno potrà mai dire ma sì, è giusto in certi casi. Però, come in questi casi accade, qualcuno che si trova in questa situazione deve fare una scelta, e a volte fa una scelta. Questo era il film La Grande Guerra di Mario Monicelli, in cui il tema viene lambito. Sono due soldati vigliacconi, due imboscati, che si trovano in una cosa che, di cui non hanno la capacità di gestione. Sono in guerra a tutti gli effetti, si trovano anche loro sotto interrogatorio. Qua siamo in tempo di guerra, non siamo in tempo di pace, anche se oggi la nostra pace è coperta dal melifluo e ipocrita velo delle operazioni umanitarie. In realtà molte volte si parla di stato di guerra. Devono dare delle informazioni, sono pronti a confessare naturalmente. Gasman, uno dei due, viene preso da un moto d'orgoglio perché il soldato nazista insulta gli italiani e va a testa alta di fronte al plotone di esecuzione. Il più debole dei due, che è Alberto Sordi, viene sottoposto a un atipico elemento di coercizione e tortura, che è la minaccia di essere fucilato. O a volte accadono esattamente delle finte fucilazioni, si porta al punto estremo una persona che pensa di essere ucciso pensando di cogliere quel momento fatale in cui pur di non morire si confessa, ma in realtà non sapeva nulla Alberto Sordi, e quindi viene fatalmente e realmente fucilato. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Cosa deve dire? Una considerazione di base. Il concetto della coercizione ha due problemi in sé. Uno, il fatto che a meno che tu non abbia altre informazioni da un'altra parte, non sei mai convinto e sicuro che quello che ti stanno raccontando sia la verità, nonostante la tortura che tu abbia posto in essere. E poi soprattutto un'altra cosa. Sì, che però esiste l'elemento del riscontro, magari qualcosa puoi riscontrare. Ovviamente. E poi l'altra questione che invece dà molte maggiori certezze, che non a caso viene abbondantemente trascurata sui giornali di questi giorni, è che esistono delle sostanze psicotrope che consentono il rilassamento della volontà. E queste esistono ormai da molti anni, al di là dei famosi letterariamente pentotal, sodio amital. Addirittura adesso sono arrivate persino in un uso ricreativo, per cui vengono usate la cosiddetta droga dello stupro, che consente di ottenere il consenso di abbassare il livello di difesa. Sì, esattamente. Ci sono sempre dei margini, guardi, anche di di grande fantasia giornalistica molte volte quando si raccontano queste cose. Io penso, poi adesso lo confermeranno gli ospiti, se fosse così semplice, fosse veramente il siero che usa Carradine Bill per far parlare la sua ex sposa, gli spara con una pistola questa siringa, dice questo è più potente di tutti i pentotal che sono mai esistiti, devi confessare. Se esistesse veramente non ci troveremmo di fronte a questo problema. Angelo Iannone, una battuta su quello che ha detto il nostro ascoltatore. Tralascerei la questione dell'uso di sostanze psicotrope ad hoc perché francamente non sono informato. Non fa parte dei protocolli poi ufficiali, diciamo. Non fa parte dei protocolli, chiamiamoli così. Ma invece, ecco, è interessante la prima considerazione che ha fatto quando dice certezza di cioè rischio di ottenere poi dichiarazioni deformate, no? È un po' come durante la Santa Inquisizione che qualcuno, pur di smetterla con le torture, confessava, preferiva piuttosto confessare di essere effettivamente in preda al demonio. No? Questo rischio c'è, Angelo? Sì, questo, ecco, infatti questo rischio, perché per l'appunto a questi metodi si ricorreva, e dico si ricorreva perché sono assolutamente certo che c'è stato un profondo processo di maturazione almeno nelle nostre forze di polizia da questo punto di vista, di maturazione professionale, si ricorreva proprio da parte delle forze di polizia perché chiaramente un conto è ottenere un'informazione del tipo il sequestrato è lì e quindi si libera sequestrato piuttosto che il latitante si trova lì, un conto è ottenere invece delle dichiarazioni che possono non trovare in sé un riscontro, ma al tempo stesso comunque generare dei danni. Ecco, è quello che un po' dicevamo, diciamo che se l'intelligence si muove bene, poi sa come trovare i propri riscontri. Sentiamo Gianandrea Gagliani, buongiorno. Buongiorno a te, ascoltatori. Gianandrea Gagliani, voce nota a questi microfoni, a questa radio, giornalista del Foglio, cura la rubrica militare, dirige il mensile web Analisi e Difesa, si occupa di analisi storico-strategiche e studio dei conflitti internazionali, collabora anche con il Sole 24 Ore. Qual è il tuo punto di vista rispetto a questo rapporto fra pressioni e tortura a Guantanamo e effettivo, diciamo, obiettivo colpito Bin Laden? Io credo che ci sia un fondo di verità, in realtà proprio le coercizioni applicate a Guantanamo sembra che abbiano consentito di individuare il corriere di Bin Laden. Ricordiamoci che Bin Laden, per quanto ne sappiamo, sempre lo dico perché ci sono tanti lati oscuri in questi 10 anni di caccia a Bin Laden e anche negli ultimi giorni nell'attacco del Blitz, ma Bin Laden pare che si sia sempre potuto salvare dalla caccia perché non usava strumenti tecnologici. Oggi il mondo è estremamente tecnologizzato, anche gli strumenti per cercare e controllare le persone. Come Provenzano proprio. Certo, lui non usando cellulari né internet, nulla, non era intercettabile, e utilizzava dei corrieri, uomini di fiducia, in questo caso un kuwaitiano, che portavano a lui notizie e portavano ai suoi comandanti gli ordini di Bin Laden. La coercizione, la tortura ha permesso di avere un nome, un'identità di un corriere di Bin Laden. Una volta individuato quest'uomo, e ovviamente come dicevi giustamente tu, partono tutte le verifiche e i riscontri di intelligence. Quest'uomo è in Pakistan, si muove in questa città, lo cerchiamo con informatori, con l'intelligence umano, con l'intelligence satellitare, e in questo modo si è individuata la casa, l'individuo. D'altronde che a Guantanamo andasse con le mani un po' pesanti, ci sono prove fotografiche, la famosa storia, ricordi, della soldatessa che metteva i prigionieri affastellati uno sull'altro. Abbiamo ormai una letteratura anche concreta, non sono più dicerie e voci. Io dico, credo questo, che l'Occidente, come alcuni altri paesi, fa benissimo a dotarsi di strumenti anche legali che vietino la tortura, che è uno strumento di inciviltà. Però mi pongo di fronte a un fatto concreto: se soltanto con la tortura si possono ottenere informazioni da un terrorista, informazioni grazie alle quali si possono salvare centinaia, migliaia di persone, proviamo a immaginare se torturando un uomo di Bin Laden avessimo potuto sapere il 10 settembre 2001 quello che sarebbe accaduto il giorno dopo, quanti vertici politici, quanti governanti avrebbero detto no, rinuncio alla tortura, nonostante questa potrebbe portarmi a conoscere cose importantissime che riguardano appunto un attentato così devastante. Quindi, ecco, Gianandrea, proprio su questa tua domanda. Il gioco è per forza sporco, questo voglio dire. La tua domanda è importante e questa la lascio sospesa e fra un minuto avrò un ospite che mi darà una risposta. Se ci si pone la domanda per paradosso, dire ma se io so anticipatamente che da questa persona dipende il destino di un numero enorme di probabili vittime, potrò dire non metti le tenaglie sul fuoco a scaldarsi o non prende gli elettrodi in mano. Sì, civilmente dovresti dirlo, ma il lavoro sporco chi lo fa poi? È realmente passibile di questa generalizzata condanna? È duro porsi la domanda. Pensate quanto sia duro rispondere, ma tra un istante cercheremo comunque di rispondere. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog 2.0. Riprendiamo velocemente nella terza parte brevissima di questa trasmissione e cerchiamo di rispondere alla domanda che, come ho detto prima, già fa male porsela. Esiste un margine in cui, al di là delle convenzioni, al di là delle leggi, al di là delle regole, ci siano enti, persone, istituzioni che ufficialmente o in maniera sommessa rappresentano comunque uno Stato che possano applicare sistemi di coercizione che giudichiamo disumani, giustificandoli con il fatto che le informazioni ottenute attraverso quei sistemi sono di vitale importanza per salvare delle vite, per prevenire degli atti terroristici. Questa domanda la pongo al professor Edoardo Greppi. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Docente di diritto internazionale all'Università di Torino, ha scritto vari saggi su questo tema, ne cito due: Codice di diritto internazionale umanitario, edizione Giappichelli, e I crimini di guerra contro l'umanità nel diritto internazionale, edizioni UTET. Mi sembra chiaro che il diritto prescriva che non si tortura, ma esistono delle forme, non dico di giustificazione, ma di abbassamento del livello di repressione, di attenzione nei confronti di chi compie questi atti, giustificandoli con l'emergenza, il bene comune e via dicendo? Guardi, il vero problema è che la formulazione delle norme del diritto internazionale in questa materia, in particolare quella adottata dalla Convenzione internazionale contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che è stata adottata a New York il 10 dicembre del 1984 e che è in vigore dal 1987, non lascia molti margini di apprezzamento circa una possibile legittimità di atti di questo genere. Cioè, ho qui davanti l'articolo 2, ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, e aggiunge: nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica internazionale o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura. Allora, è chiaro che siamo in presenza di un divieto assoluto, senza deroghe possibili, senza eccezioni, e che scaturisce da norme del diritto internazionale che appartengono sia al diritto dei conflitti armati, cioè al cosiddetto diritto internazionale umanitario, che è il diritto applicabile appunto a situazioni di conflitto, sia nella generale situazione invece, tra virgolette, chiamiamola di pace, cioè quella nella quale la comunità internazionale ha adottato una serie di norme a tutela dei diritti fondamentali. Quindi, della professore, persona umana. È sbagliato dire che chi comunque tortura, e che si tortura mi sembra un dato scontato, o attraverso sistemi diretti, o affidando molte volte i prigionieri a stati alleati che non hanno nessun problema a torturare, cioè te lo lascio un paio di giorni, poi ridammi le informazioni. Ecco, che questo accada sembra, accade comunque sempre in una totale disprezzo di quello che è il diritto scritto. Però viene in parte tollerato, questo bisogna dire. Le dico di più, non è semplicemente diritto scritto, nella percezione attuale della comunità internazionale è oramai diventata norma di diritto internazionale generale, consuetudinario, addirittura norma di diritto imperativo, il cosiddetto jus cogens, cioè è una norma rispetto al quale nessun'altra norma può permettere comportamenti in deroga, cioè un divieto generale, assoluto, generalizzato. Cioè è chiaro che è uno di quei casi in cui, con buona pace di alcuni che hanno anche cercato di argomentare a favore, appunto, con le motivazioni che sono state molto bene spiegate anche prima dai suoi ospiti, e cioè quando si mette sui due piatti della bilancia una vita umana a fronte di 3.000 e le storce le informazioni a quell'una con questi metodi può permettere di salvarne 3.000. Ecco, un classico caso che pone l'antico interrogativo se il fine giustifichi i mezzi. Ecco, in termini in cui l'abbiamo posto, dal punto di vista giuridico, poi noi possiamo disquisire a lungo in termini, diciamo, di ordine politico e altrimenti sociale, sociologico, psicologico, tutto quello che vogliamo mettere in ballo. Ma dal punto di vista giuridico, margine per affermare che vi sia una qualche possibilità di farlo direttamente o indirettamente, di appaltare questo servizio, questo gioco sporco a qualcun altro, eccetera, eccetera. Ecco, questo, per tutto questo non c'è nulla che lo autorizzi, non solo, ma chi pone in essere questi atti o chi li abbia ordinati commette un crimine. Grazie professore, io devo interromperla perché la trasmissione è finita, però ci dà quella parola di rassicurazione che volevamo sentire dire da lei. Il diritto internazionale non ammette la tortura. Chi lo fa poi entra in un altro genere di giudizio, di considerazioni che però esulano dal fatto che la legge internazionale dice non si può torturare. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Alessandro Chiappini, grazie ai miei ospiti. A lunedì. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.